12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, nella puntata di oggi cercheremo di capire come poter trovare lavoro in Australia. Cercheremo di scoprire quali sono le procedure da seguire e come muoversi una volta arrivati sul posto, insieme a Nicolò De Giosa, che ha fatto questa esperienza. Provando ad esplorare questa possibilità, per prima cosa ci siamo resi conto che è bene prepararsi in anticipo per poter ragionare su un periodo medio-lungo, per avere una disponibilità di fondi propri iniziali e per avere un buon livello linguistico, che sicuramente è uno dei requisiti principali per lavorare all'estero in generale. Nel 2012 il tasso di disoccupazione in Australia si è attestato al 5,2%, quindi sicuramente molto basso, e i settori principali in crescita sono stati turismo, agricoltura e materie prime. Tra le figure professionali maggiormente richieste vi segnalo carpentieri, psichiatri, veterinari, ingegneri delle telecomunicazioni, ragionieri, infermieri professionisti, architetti paesaggistici, insegnanti, saldatori, scalpellini, cartografi, ingegneri biomedici dei trasporti, elettricisti e muratori. Una delle modalità principali per poter andare in Australia e cercare quindi lavoro è tramite la Working Holiday Visa. I requisiti per ottenerla sono di avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, avere mezzi finanziari sufficienti per l'autosostentamento, come dicevamo appunto all'inizio, avere un'assicurazione e avere anche già il biglietto di andata e soprattutto di ritorno, perché questo tipo di permesso ha una durata limitata di un anno con la possibilità di essere prorogato al massimo per altri 12 mesi. Il costo della Working Holiday Visa è di €150 al cambio attuale. Si può fare richiesta sul sito www.italy.embassy.gov.au e in 48 ore dalla domanda si ha la risposta via mail. Altra cosa che vi dico, che vi segnalo, è che a differenza di altri paesi non c'è un limite di numero di visa concesse. Un'altra possibilità è quella di essere richiesti direttamente da un'azienda australiana per un lavoro qualificato. Infatti questa via è possibile solo per profili qualificati non presenti sul territorio australiano e il visto viene rilasciato solo per la durata del contratto. Questa possibilità tuttavia ha regole che cambiano in continuazione, quindi è bene informarsi prima tramite le ambasciate. Infine un'altra possibilità è quella di iscriversi nella lista Skill Select, ovvero nell'elenco di personale qualificato non richiesto espressamente da un'azienda ma interessato a lavorare comunque in Australia, una sorta di graduatoria tramite cui si può venire contattati in base alla disponibilità di posti di lavoro scoperti. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E dopo aver dato qualche informazione generale su come poter recarsi in Australia per cercare lavoro e quali sono le figure maggiormente richieste, diamo il benvenuto al nostro ospite Nicolò De Giosa, che in Australia c'è stato. Ciao Nicolò, benvenuto a 12 minuti. Ciao Giovanna. Nicolò, per prima cosa ci racconti un po' chi sei e che cosa fai adesso nella vita? Oh, dunque, vabbè, sono Nicolò, vivo a Mestre, ho 30 anni e... al momento sto facendo un tirocinio e lavoro in contemporaneamente a Casino di Venezia come cameriere e basta, e come hobby faccio il musicista. Ecco Nicolò, quindi insomma varie cose in questo momento. Quando sei stato in Australia? 2 anni e mezzo fa. Ok, e dove sei stato esattamente e quanto tempo poi sei rimasto? Ok, allora in tutto sono stato 6 mesi. I primi 2 mesi sono stato a Byron Bay, vicino a Brisbane, e 4 mesi a Sydney. Nicolò, perché hai deciso di provare a fare questa esperienza? Era un po' il sogno della mia vita, comunque, fare questo viaggio e provare a vivere in un altro stato. Ma e perché proprio l'Australia? Perché ci sono le onde per fare surf. E quindi questa è un'altra cosa che scopriamo di te. Esatto. Quindi insomma era un po' un sogno da tempo, cioè l'Australia. Sì, un po'... sì, esatto, diciamo un po' sogno giovanile. Ok, che insomma poi realizzato certo. Molto avanti negli anni. Certo, Nicolò, ascolta, prima di continuare a raccontarci poi la tua esperienza, effettivamente com'è andata, che cosa hai fatto, ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi rientriamo qui in studio. Benissimo, vado. Oh, I need you back. Ho fatto errori che ripensandoci non farei, ma questo mondo, dimmelo tu, chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Ah, la felicità. Poi che cos'è? Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. Ah, la felicità. Dodici minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, oggi stiamo parlando della possibilità di lavorare in Australia e abbiamo ospite qui con noi Nicolò De Giosa che ha fatto questa esperienza. Nicolò, nella prima parte della puntata abbiamo dato alcune informazioni su come poter andare a lavorare in questo paese e le figure professionali maggiormente richieste. Tu esattamente cosa hai fatto una volta arrivato in Australia? Dunque, appena arrivato, sei settimane ho seguito un corso di inglese e contemporaneamente così qualche giorno a settimana ho lavorato come cameriere in un bar, il ristorante, e dopodiché quando mi sono spostato a Sydney ho lavorato 4 mesi a tempo pieno, sempre come cameriere. Ecco Nicolò, a proposito dello studio, no, della scuola, sicuramente è uno dei requisiti fondamentali quando si vuole andare a lavorare all'estero, ovviamente conoscere bene e parlare la lingua del paese dove si va. La scuola tu l'avevi già trovata prima di partire? Come... Sì, l'avevo già trovata in internet, navigando in internet, ci sono un sacco di scuole a livello internazionale, appunto, che danno la possibilità di potersi iscrivere e procedere con tutte le carte da mandare al governo. Ecco, infatti, o i visti. Sì, ecco, infatti, a proposito di questo, no, un'altra cosa che volevamo capire, ecco, proprio la procedura, cioè tu come hai fatto poi a livello burocratico per avere il permesso e recarti in Australia? Esatto. Dunque, per il permesso, nel mio caso ho fatto un working holiday di un anno. Mm-hmm. E è stato seguito dalla scuola che organizzava. Ok, quindi tu hai fatto richiesta appunto di poter frequentare i loro corsi. Frequentare il corso e di conseguenza loro si occupavano anche dell'aspetto dei visti, dei permessi e tutto quanto. Ho capito, quindi insomma è stato... Sì, dimmi. L'alternativa può essere quella di andare direttamente sul sito governativo australiano e andare nella sezione dei visti e da là procedere con l'iscrizione e la richiesta. Certo, ecco Nicolò, per trovare lavoro poi una volta che sei arrivato là, mai avuto le difficoltà? Cioè com'è stato un po' muoversi lì? Difficoltà ne ho avute più a Byron Bay, in quanto è un paese piccolo e quindi la popolazione locale diciamo è quella che viene principalmente occupata, e poi i turisti vengono di seconda scelta diciamo, mentre a Sydney, essendoci molta più opportunità, è stato molto più semplice. Infatti nel giro di una settimana avevo già iniziato a lavorare. Ecco Nicolò, quindi tu mi pare di capire che sei proprio partito così un po' allo sbaraglio, nel senso non è che già dall'Italia avevi idea di che cosa saresti andato a fare o avevi qualche contatto? No, non esattamente, avevo un contatto, un amico di un amico che vive là da un po' di tempo, ma... Ok, quindi insomma è stato sì. Fondamentale, insomma. Certo, quindi sì, avevi un contatto, ecco, appunto così a livello di amicizia che sapevi che a cui potevi appoggiarti, però poi a livello lavorativo dico ti sei dovuto muovere lì sul posto. Sì. Ecco Nicolò, se un giovane appunto volesse fare questa esperienza, tu quale consiglio ti sentiresti di dare? Di farlo sicuramente, e di rimanerci il più tempo possibile. Ok, insomma, quindi di provare, cioè se questo è quello che un ragazzo vuole fare, insomma, tu dici provateci, insomma, che poi le possibilità poi ci sono, ecco, è fattibile. Sì, possibilità ce ne sono, ne nascono di nuove tutti i giorni. Sì, di sicuro non è monotono. Nicolò, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e ovviamente per averci raccontato la tua esperienza. Grazie a te, Giovanna. 12 minuti, a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi fosse intenzionato a provare a cercare lavoro in Australia, vi segnalo la data del 4 aprile. All'Informa Giovani di Mestre Venezia, alle ore 18:30, si terrà un incontro dedicato proprio a questa possibilità, in cui verranno date tutte le informazioni su come poter fare questa esperienza, quali opportunità concrete ci sono e potrete anche incontrare chi c'è stato. Per informazioni potete scrivere a informagiovani@comune.venezia.it. Per chi volesse già fare una prima ricerca tramite web, vi segnalo i seguenti siti dove poter trovare offerte di lavoro in Australia: www.jobseeker.com.au, www.sic.com.au, jobs.com.au e careerone.com.au. Infine, vi ricordo il sito www.italy.embassy.gov.au, tramite il quale poter richiedere la Working Holiday Visa. E per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi anticipo che nella prossima puntata parleremo di Work Camps, come poter trascorrere un periodo all'estero e avere la possibilità di conoscere altri ragazzi e culture diverse dalla propria. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.